La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24 per tutti i consigli del weekend cinematografico. Una settimana che è partita con la scomparsa davvero drammatica di uno dei più grandi maestri della storia del cinema italiano, Mario Monicelli. Ne parleremo fra poco, ma nella nostra trasmissione ovviamente ci sarà anche l'analisi dell'andamento del cinema, tutte le novità cinematografiche di questo weekend. E allora andiamo a sentire subito i nostri titoli di testa. Grazie Mario. Con la scomparsa di Monicelli finisce la generazione che ha fatto grande il cinema italiano. Ci restano i suoi capolavori, dalla Grande Guerra ai Soliti Ignoti, da Amici Miei a L'Armata Brancaleone. Esorcizzare la vecchiaia e la morte con un pizzico di cinismo. È il Woody Allen di Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, il nuovo lavoro del regista newyorkese con Naomi Watts e Josh Brolin. Non aprite quella botola, soprattutto se è al centro della cantina di casa ed è piena di lucchetti. È lì che abitano i fantasmi di The Hole, l'ultimo lavoro di Joe Dante, ora in Blu-ray 3D. Più spettatori soprattutto grazie al 3D e un rilancio del cinema italiano. Radiografia del 2010 del cinema all'indomani delle giornate professionali di Sorrento. Ne parliamo col presidente degli esercenti, Paolo Protti. La puntata di questo fine settimana non può che aprirsi, come dicevamo, nel ricordo e nel segno di Mario Monicelli, che ci ha lasciato, è proprio il caso di dirlo, visto che il suo è stato un gesto volontario, martedì 29 novembre, all'età di 95 anni. La nostra trasmissione, come sapete, è un settimanale, come tale capita che arrivi con qualche giorno di ritardo su alcuni eventi, ma la forza della scomparsa di un maestro come Monicelli, l'ultimo grande artefice della stagione migliore del cinema italiano, è tale da rendere la notizia di attualità non solo per un settimanale, ma forse anche per un mensile che esca fra tre settimane. E c'è da scommetterci, il 2010 sarà ricordato anche come l'anno in cui il cinema perse il suo ultimo mostro sacro, come il 93 di Fellini. E allora la Rosa Purpurea ha preparato un omaggio. Per chi come noi fa radio, il contributo più prezioso sono le voci. Mi era capitato spesso personalmente di intervistare Monicelli, sempre disponibile nella sua asciutta schiettezza di toscano. Mi era capitato in un lussuoso hotel di Trieste, come nella Piazza Grande di Locarno, o ancora lo scorso anno nel foyer di un elegante albergo del centro di Torino. Dopo l'intervista avevo preso l'ascensore con lui e l'avevo visto infilarsi nella stanza in cui Francis Ford Coppola rilasciava interviste e stringergli la mano come farebbe un qualsiasi fan. Lui, che aveva diretto capolavori come I Soliti Ignoti, L'Armata Brancaleone, La Grande Guerra, Il Marchese del Grillo, Un Borghese Piccolo Piccolo. Vi assicuro che anche da parte del regista del Padrino c'era comunque assoluta devozione. Capolavori, abbiamo detto, e sotto questa voce come non inserire Amici Miei. Quel film era stato l'oggetto di un'intervista che Monicelli mi aveva concesso per Radio 24, per un programma dell'estate 2009, La vita in un film. Avevamo parlato di Amici Miei, di come quel film avesse cambiato nell'immaginario collettivo alcune voci, scherzi, buontemponi, cameratismo, e gli avevo chiesto se i cinquantenni italiani di oggi avrebbero la freschezza dei Tognazzi, Moschin, Noiré e compagnia. Monicelli ci aveva risposto che in fondo si trattava di esorcizzare la morte e ci aveva svelato le origini della mitica supercazzola. Sentiamo. Ma non credo, la voglia l'avrebbero, però con quella disinvoltura, no, ma soprattutto con quella assoluta parità fra loro e con quella di distanza dalla loro beffe, diciamo, e quella malinconia e anche quella per senso di frustrazione, perché poi alla fine era lo sfuggire alla vecchiaia, alla malattia e alla morte, tant'è vero che c'è anche quello. Ma vede, soprattutto la cosa importante secondo me è che non è stato inventato niente, erano tutte leggende cosiddette metropolitane che circolavano per Firenze da molto tempo, da decenni e decenni, e che si raccontavano, e io fra l'altro ho conosciuto un paio dei protagonisti, quindi era una vicenda, che una maniera di stare nella vita che era del momento, dell'epoca, degli anni, direi fine degli anni 60, anni 70, primi anni 70, quindi era un momento abbastanza malinconico. Non era così di buffonerie, di divertimento, basta. era una cosa corrosiva, un po' cattiva, ma al tempo stesso abbastanza disperata, voglio dire. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefallina, come antifurto, per esempio. Ma che antifurto, mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E prematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Per lei. Basta, Rossi, mi seguono al commissariato, prego. No, no, no, attenzione. No, basta, ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no... Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarabbiata piove. Che dopo... succede, Paolini? No, nulla, buongiorno signor Necchi. Buongiorno, ciao. Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma sono amici sua? Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza. Sono due volpettini, così. Paolini, ora mi fanno una questione. Via, lei è sempre stata una persona ragionevole. Oh, bello, è capito, si farà finta di passare da Bischero. Bravo, Paolini, bravo. A Firenze c'era una quantità di persone, di artigiani, di professionisti che avevano questo gusto della beffa e del mettere in condizioni l'altro, che sapevano fare questa cosa, per cui ti fermavano chiunque, un sconosciuto, con la scusa di chiedergli una cosa, e andavano avanti con questo linguaggio che era fra l'incomprensibile, però con qualche parola che poteva far credere che quello che fosse il colpevole dell'incomprensione fosse l'altro, e andavano avanti per parecchio, sa, prima che di farsi scoprire, anche affrontando gente di importante. Erano bravissimi, erano dei che posso dire, dei fra l'attore e il truffatore, erano in tanti che sapevano farlo. E uno dei nostri amici, Raffaello Pacini, lo dico anche sempre il nome e cognome, non c'è più perché era più anziano di me, di noi. Lui questa cosa qui la sapeva fare in una maniera sublime, tanto è vero che ha fatto da maestro agli attori, ma loro non sono mai riusciti a farlo come lui, anche perché lo facevano così, per l'occasione delle riprese e poi basta, lui la fa tutta la vita. Le note swing ci introducono al clima tipico dei film di Woody Allen. Parliamo infatti di quella che è certamente la proposta cinematografica di questa settimana, in apertura di questa seconda parte della Rosa Purpurea. Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, il nuovo lavoro del prolifico regista newyorkese. C'è chi dice forzatamente prolifico, viste le ex mogli che si è lasciato alle spalle. E allora Woody torna a Londra, dove aveva recentemente ambientato Match Point, Scoop e Sogni e Delitti, per raccontare questa storia corale di persone che cercano l'amore e si rifugiano nell'illusione dell'amore. Cardini narrativi della storia sono due coppie, da una parte Alfie ed Elena, rispettivamente Anthony Hopkins e Gemma Jones, e dall'altra la loro figlia Sally, Naomi Watts, e il marito Roy, Josh Brolin. Sono due coppie in crisi, anzi, quella dei vecchi Alfie ed Elena si è già sfasciata. Lui rincorre una seconda giovinezza fra palestre e diete salutiste, lei cerca certezze da una fattucchiera in grado, dice, di predire il futuro. Crystal del giorno. Accomodati, tesoro mio. Sono Elena Shepridge. Quanto sei bella. Ah. Grazie. Gabriella mi ha detto che vorresti fare una seduta. Dice che lei vede il futuro. Io adoro Gabriella. È una straordinaria massaggiatrice. Sono diventata dipendente dai suoi massaggi. Sono l'unica cosa che mi allevia il dolore al collo. Paghi in contanti o con assegno? Gabriella ti ha detto la tariffa. Oh, mi creda, lei è molto meno costosa di tutti gli psichiatri di grido che ho consultato. Mettiti seduta allora. Oh. Sì, mettiti. Grazie. Pure comoda. Stanno seduti lì con la faccia di pietra quando ti serve aiuto. Oh. E quelle orribili, orribili medicine mi fanno sentire più agitata. E mentre Elena si fa intortare dalla chiromante, Alfie incontra e clamorosamente decise di sposare una call girl appariscente e del tutto stupida, per la quale è disposto a mettere a repentaglio la sua condizione di benestante. Mi devi perdonare se ti sembro maldestro, ma è che di solito non faccio certe Come cose. No? Sì. Rilassati, non ti preoccupare, ok? Sì. Di base faccio l'attrice. Ah, bene, così. Sì, sei. Questo lo faccio part time. Bene. Sei bella. Oh. Ok. Oh. Sbrighiamo gli affari? Ah, sì, certo. Lo sai che è 3,50, eh? Sì, certo. Ecco, sono 500 e puoi tenere il resto, va bene? Oh, sì. Grazie. Ci diamo sotto, Cocco? Sì. Certo. Una generazione più in basso, Sally e Roy vedono sfilare via il loro matrimonio. Lui è uno scrittore in crisi, aveva convinto tutti col suo primo romanzo, ma non trova più la vena. E i lavoretti con cui sbarca il lunario si dimostrano di una saltuarietà sempre più preoccupante. Così la coppia va in pressione. Roy si innamora di una bellissima dirimpettaia, ormai promessa sposa, Frida Pinto, la protagonista di The Millionaire. Mentre Sally, aiuto gallerista presso un facoltoso e affascinante mercante d'arte, Antonio Banderas, finisce per invaghirsi del suo capo e della vita che, ancora illusa, sembrerebbe poterle permettere. Senti, non so se ti interessa, ma ti posso offrire due biglietti per la Lucia di Lammermoor stasera? Sai, mia moglie mi ha chiamato e non ci può venire. Così ho pensato che magari potresti prenderli tu e andarci con tuo marito. Beh, non hai qualcun altro a cui chiedere prima? Così all'ultimo momento, no. Prendi questi e... Oh, voglio dire, se non ti dispiace, possiamo andarci noi due. Sì. Se non avevi altri programmi per stasera. No, ho tanta voglia di andarci. Ci vedrei volentieri. Bene, voglio allora... dire... Perfetto. Ok. Prego, ecco. Grazie. Così, alla ricerca di un amore, qualsiasi sia l'età che si attraversa, i protagonisti del film cercano di deviare il corso naturale delle cose con scorciatoie che si rivelano fallimentari. Commedia corale, senza un vero timone narrativo, incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, buon adattamento del titolo originale You Will Meet a Tall, Dark Stranger, incontrerai uno straniero alto e bruno, riporta Woody Allen alle atmosfere di tutti dicono I love you e focalizza l'attenzione sul bisogno di allontanare non solo la morte e la vecchiaia, ma anche l'insuccesso, la mediocrità, veri mali oscuri della nostra società. Pur sapendo che le carte del destino non si fanno truccare, per raccontare questa parabola Allen si serve di fuoriclasse come Anthony Hopkins e Gemma Jones, meglio dei più giovani Naomi Watts e Josh Brolin, e di una strepitosa Lucy Punch nei panni della squillo che accalappia il vecchio pollo e lo spenna di tutti i suoi averi. Il tutto servito da una sceneggiatura non sempre all'altezza, con qualche lungaggine e molti graffi in meno del bellissimo, acido, irriverente Basta che funzioni, il suo film precedente newyorkese, che in fondo navigava nelle stesse acque tematiche, ma faceva ridere di più e più spesso. E allora abbiamo parlato della prima proposta, della prima novità di questo fine settimana, il film di Woody Allen, e noi adesso invece giochiamo insieme, come facciamo sempre qui alla Rosa Purpurea, con un film misterioso da scoprire e sul quale, come dire, dire la vostra al nostro indirizzo di posta elettronica, la Rosa Purpurea @radio24.it. In questo caso, essendo un film molto famoso, molto celebre e anche molto musicale, e quindi non avendo film, come non avendo parole da tirare fuori, abbiamo pensato di proporvi tre estratti audio, tre momenti, tre passaggi musicali. Quello che vi chiediamo è di indovinare di che film si tratta, e forse questo non sarà difficilissimo, ma anche di dirci di quale scena si tratta. Ditecelo descrivendola con parole vostre, non è un problema. L'importante è capire cosa si vede mentre si sente questo, e vi assicuro che il film è di una tale importanza e popolarità che molti di voi sicuramente ci azzeccheranno. Sentiamo. E allora avete sentito le note classiche della colonna sonora di questo capolavoro assoluto. Se avete già indovinato di che film e di quale scena si tratta, la Rosa Purpurea @radio24.it per vincere il Blu-ray di questo film. Cambiamo argomento, andiamo a un altro film, a un'altra novità in sala in questo fine settimana. Si intitola semplicemente We Want Sex, ma non è un film hard, anzi tutto sommato si tratta di una commedia firmata dal regista che aveva già fatto un grande successo all'epoca con L'erba di Grace, e andiamo nella Londra degli anni 60, nella quale in uno grande stabilimento automobilistico la percentuale di donne è davvero molto molto risicata, e tutte queste signore chiedono tutti loro diritti. Chiara Pizzimenti. You can get it if you really want. dice la canzone, se lo vuoi veramente puoi ottenere quello per cui lotti, ma bisogna lottare. Era il 1968, nella fabbrica della Ford di Dagenham lavoravano 55.000 uomini e 187 donne. Non qualificate, le definisce l'azienda, e abbassa loro il salario, facendole lavorare alla cucitura dei sedili in una zona semifatiscente del magazzino. Fa un caldo da morire, tanto che le signore lavorano in reggiseno e se piove serve l'ombrello. Stavamo dicendo coi ragazzi che avremmo scioperato da anni se fossimo finiti in un buco come questo. Le donne non hanno mai scioperato. Abbiamo il diritto di essere considerate semispecializzate e ottenere il relativo salario. Io mi rendo conto del suo malcontento. Noi faremo quello che abbiamo proclamato. Qualsiasi coglione sciopera, perché noi non dovremmo. Sciopero dunque, senza l'appoggio dei sindacati tradizionali, poco inclini a mettersi così contro l'azienda. A guidare la protesta è una delle lavoratrici, Rita O'Grady. Noi dobbiamo pretendere pari trattamento e un livello di salario che si basi sulla professionalità, non se abbiamo il pisello o no. Le donne non lavorano più. E quando mancano i sedili, l'intera fabbrica si ferma, non senza i mugugni degli altri operai. Abbiamo un'altra agitazione sindacale. Chi è questa settimana? Sono le donne. Parità! Parità! Ognuna di noi operaie ha diritto alla stessa paga degli uomini. I walk along the city streets you used to walk along with me. Al We Want Sex del titolo va aggiunta la parola equality, uguaglianza fra i sessi. E di donne, solidarietà e diritti, Nigel Cole, il regista, è un esperto. Il suo debutto dietro la macchina da presa è stato L'erba di Grace, cui è seguito Calendar Girls. Qui, pur non mancando la leggerezza che contraddistingue le altre pellicole, si aggiungono aspetti sociali e soprattutto sindacali. La lotta sessantottina è ricordata da filmati originali, quello d'apertura fa pensare all'inizio di Full Monty, ed è incarnata da Sally Hawkins, già protagonista di Happy Go Lucky, lanciata nella lotta da Bob Hoskins, unico uomo a credere nelle donne. Musica, capelli cotonati e vestiti color pastello non mancano in una commedia femminista e tutta british. Mi è piaciuto, ha dato grinta, forza, sì, speranza. È trattata con molto garbo, una rivalsa delle donne che sono là in Inghilterra, almeno sono unite. Beh sì, a me è piaciuto molto e mi sono anche divertita. A me non è dispiaciuto. Sicuramente mi sembrava un po' soft, leggermente ingenua un po' la cosa, però va bene così. Parla di cose intelligenti ma con lievità. Mi sembra impossibile che nel 68 ci fosse una disuguaglianza così, almeno in quel mondo evidentemente. Sì, mi è piaciuto molto e c'è da sperare che anche oggi le lotte sindacali siano così forti come in quel momento. L'argomento è molto interessante ed è raccontato con leggerezza ma impegno, molto carino. We Want Sex, raccontato da Chiara Pizzimenti, un'altra delle proposte più interessanti di questo fine settimana al cinema, occhiata d'obbligo alle classifiche perché domina Harry Potter, non poteva che essere così, altri quasi 3 milioni e mezzo di euro incassati nello scorso weekend che portano a più di 13 il totale e il film è ancora insomma ben lungi dall'aver finito il suo sfruttamento in sala. Secondo posto per A Natale Mi Sposo. Terzo posto per Rapunzel, il disneyano Rapunzel in 3D, la favola di Raperonzolo. E poi ancora esordio al quarto posto per La donna della mia vita di Luca Lucini, commedia corale, 965.000 euro, forse un po' schiacciato anche dalle tante commedie italiane che ci sono in alta classifica, come per esempio Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, che è al sesto posto, Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che è al settimo, ma che continuano a sgranocchiare buoni incassi. Voglio segnalare al nono posto Noi credevamo di Mario Martone, non tanto per l'incasso globale che si avvicina al milione di euro, ma perché è una produzione, ne abbiamo avuto modo di parlare qui alla Rosa Purpurea, di grande qualità, di grande importanza per il nostro cinema e anche per raccontare in un certo modo la nostra storia, e perché è uscito in pochissime sale ma sta avendo una media per sala altissima, e questo significa che è un'operazione riuscita nel gradimento del pubblico. This time of year tends to weaken. La voce è quella straordinaria di un'artista, una cantante anche molto bella, devo dire, che si chiama Maria Mena ed è una cantante norvegese, una delle poche brune norvegesi, tra l'altro, nel panorama. Perché lo diciamo? Perché questa canzone, che ha veramente stregato il mondo, e non mi meraviglierei di trovarla candidata all'Oscar come miglior canzone, tra l'altro, è un po' la base, anzi è la colonna sonora dei titoli di coda di un film di cui vogliamo parlarvi, che esce questa settimana, Tornando a casa per Natale, film firmato da un regista norvegese che si chiama Deviazione cinematografica, Bent Hammer, che aveva fatto parlare di sé, forse lo ricorderete, con un film che si intitolava Factotum. È un film tratto da un libro, una raccolta di racconti natalizi, che si intitola, questa volta sì, Only Soft Present Under the Tree, solo regali soffici sotto l'albero di Natale. Ed è un racconto appunto di un connazionale, di un norvegese, Levi Henriksen, che appunto dà al Natale quella suo specifico, quella sua capacità proprio di essere un po' cassa di risonanza delle migliori e delle peggiori sentimenti, cioè di quelli più favorevoli, più positivi, e di quelli più malinconici, più nostalgici. In questo senso è molto bello parlare di un film sul Natale, un film natalizio, senza parlare di un cinepanettone o di qualche altro dolce di celluloide, perché è raro trovare un film natalizio, un film di Natale, un film sul senso del Natale che non sia retorico, anzi che sia anche, se vogliamo, piuttosto drammatico in certi momenti, disilluso soprattutto, anche molto molto amaro. La scena iniziale è semplicemente fulminante. La notte di Natale in un villaggio dell'allora Jugoslavia, siamo quindi all'inizio degli anni 90, un bambino esce di casa per andare a prendere il suo alberello di Natale nei boschi, suggestionato dalle immagini delle TV satellitari che mostrano l'accensione del mega abete del Rockefeller Center di New York. La madre, che non lo trova più al suo posto davanti alla TV, esce a cercarlo. Lo troviamo inquadrato dal mirino di un cecchino, col dito già posizionato sul grilletto. Salto in avanti e due profughi attraversano una strada innevata nella Norvegia di oggi, la notte di Natale. Lei porta in grembo un bambino, fermano un medico, lo costringono con la forza a seguirli in una baita. Vogliono solo che il loro bambino, senza documenti e senza diritti, nasca e stia bene. Questo è un po' l'inizio di questo film, ma poi la storia si dipana. Sono sei storie in realtà, sei storie di sei personaggi che a volte intrecciano i loro percorsi nel corso del film, in questo piccolo villaggio della Norvegia, innevato, dove la neve e la notte di Natale fanno appunto, come dicevo, da cassa di risonanza, un po' come la sfera di vetro nella quale il pupazzo di neve vede scendere la neve finta. Tutti i sentimenti si amplificano nel bene e nel male, come dicevamo, e questa è la forza un po' di questo film. Allora andiamo a conoscervi alcuni di questi personaggi, per esempio il vecchio che per l'ennesima volta ha preso in giro la sua amante. Karin, non posso davvero lasciare Liv finché i bambini vivono con noi. Ma avevi promesso che l'avresti lasciata subito dopo Natale. Lo so, ma hai detto la stessa cosa l'anno scorso. E quella volta ti avevo anche creduto. Mi dispiace. Ti dispiace? E perché? Puoi correre da Liv felice e contento. Lo sai che non è così. Pensi a me quando fai l'amore con lei. Oppure altre storie che si intrecciano, quella di un vagabondo che cerca di rubare un albero di Natale al vivaio, scoprendo poi che la persona che gestisce il vivaio è una donna che aveva conosciuto in gioventù e con la quale passerà una straordinaria e ultima notte d'amore. O ancora due bambini che per vari motivi non festeggiano il Natale e si rifugiano sul tetto del loro palazzo con un telescopio a guardare le stelle. Ciao Thomas. Ciao Bintu. Vuoi quello per Natale? No. E tu che vuoi? Io non voglio niente. Noi non lo festeggiamo il Natale. Siamo musulmani. Neanche noi festeggiamo il Natale. Ah. Non crediamo a Babbo Natale. I wanna go home. Cinema puro, insomma, in questo Tornando a casa per Natale, puro come le aurore boreali che sono immortalate sul finale di questi 85 minuti di assoluta poesia natalizia, senza appunto retoriche, con l'amaro in bocca. E allora siamo alla seconda traccia del film misterioso di questa settimana. Abbiamo sentito prima musica, sentiremo ancora musica. Diteci di che film si tratta e possibilmente anche di quale scena si tratta. Sentiamo. E allora, quale film, quale scena, La Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Bene, allora adesso vogliamo fare un po' di conti perché si sono chiuse a Sorrento le giornate professionali di cinema ed è stato anche il momento, l'occasione per tirare una linea e cominciare a fare appunto un po' il bilancio di questa stagione, di questo anno cinematografico 2010 che si va chiudendo. Si va chiudendo con alcuni dati, alcuni anche molto confortanti, come per esempio un 15% in più di biglietti staccati. E allora noi vogliamo curiosare un po' dietro questa cifra, capire quali film, quali generi, quali tecnologie anche, perché no, hanno aiutato questo 15%. E per fare questo bilancio noi siamo in collegamento con Paolo Protti, presidente degli Esercenti d'Italia. Paolo, buongiorno. Ah, buonasera a tutti. Eccoci, ben ritrovato. Allora, di ritorno da Sorrento, immagino. Esattamente, sulla strada di ritorno. Allora, un dato che preso di per sé stesso è davvero incoraggiante, più 15%, però molto spesso i dati vanno poi, come si dice, disaggregati, cioè bisogna capire a chi sono andati. Allora lo chiedo proprio a te, a chi sono andati? Ma intanto il 15% in più sono proprio di spettatori, l'incasso è ancora superiore e questo grazie alla battuta che hai fatto sulla tecnologia, cioè grazie al 3D. Quindi abbiamo avuto due fenomeni, uno è il 3D che ha avuto la sua punta di diamante con Avatar, un risultato ovviamente eccezionale in tutto il mondo, ma poi c'è stata una ottima annata che si è spalmata un po' su tutto l'anno e che ha visto protagonisti i film italiani. In primavera c'era Io, Loro e Lara, mentre adesso il caso eclatante è Benvenuti al Sud, che ha fatto veramente la differenza in questo autunno e tuttora in programmazione. Quindi cinema italiano più 3D è stato il binomio vincente della stagione 2010. Guarda, proprio sul 3D sono più incoraggiato, devo dire, sono più contento del 15% di spettatori in più, ma tu hai parlato appunto del 3D, di Avatar, che è stato l'iniziatore, l'apripista, e poi sono arrivati tantissimi altri film di grande successo, ma negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, anche qualcuno al cui il 3D non è bastato, diciamo. Questo dimostra, secondo te, che appunto non sono solo gli occhialini a fare la storia e il successo commerciale di un film? Assolutamente è così. Ci sono vari fattori. Intanto ci sono dei film che mostrano la propria forza indipendentemente dal 3D, tant'è vero che escono sia in 3D che in cosiddetto 2D o 35 mm la vecchia cara pellicola. E c'è anche una questione di prezzo, indubbiamente, perché il film in 3D costa mediamente un 2 euro e mezzo in più, e quindi c'è anche un modo di risparmiare andando a vedere il 2D. Ma soprattutto c'è anche l'aspetto che ciò che conta in certi momenti è la tecnologia, ma ciò che conta è la storia, è la sceneggiatura di un film o gli protagonisti di un film o altri fattori per cui il pubblico va a vederli indipendentemente dal fatto che ci siano gli occhiali o no. Non è qualcuno aveva detto l'anno scorso il 3D ucciderà il cinema, assolutamente no, noi dicevamo è un elemento d'arricchimento, un elemento aggiuntivo che dà una spinta propulsiva, così è stato, ma il cinema continua ad andare sulla sua strada, che è quella di raccontare le storie, e storie che devono piacere al pubblico. È assolutamente uno strumento che poi va anche utilizzato in maniera cinematografica, perché molto spesso poi si rivela anche così un'arma a doppio taglio, ci si aspetta molto e magari si trova anche poco, proprio perché magari è proprio il film a essere un po' povero. Sorrento, dicevamo, un momento importante per l'anteprima dei film italiani che vengono mostrati a pezzi, piccoli assaggi oppure addirittura in anteprima. Allora ti chiedo brevemente, Paolo, quale sarà secondo te, secondo voi esercenti che siete sempre lì attenti a Sorrento a capire che cosa prendere per la stagione successiva, quale sarà il film italiano dal quale insomma vi aspettate di più? Quale potrà essere la sorpresa? La sorpresa, data la parola, è difficile individuarla. Sicuramente abbiamo visto tante proposte di film italiani, tra quelle più vicino della bellezza del Somaro, che esce già adesso a notare, il film di Castellitto, che è un film che coniuga comicità e intelligenza, alla seconda puntata di quel film che ha dominato a fine ottobre, a inizio novembre, e allora si chiamava, anzi tuttora ancora in classifica, Maschi contro Femmine, si ribalta Femmine contro Maschi, ha ovviamente quello che ormai non si può chiamare una sorpresa, perché è stato annunciato Benvenuti al Nord, e a questo punto siamo molto incuriositi di vedere, capovolgendo la situazione, cosa accade, anche perché questa volta Benvenuti al Nord si dovrà avvalere di una sceneggiatura originale italiana, che Benvenuti al Sud invece era ripresa dal successo di Giù al Nord in Francia. E poi ci sono parecchi altri film belli. Io penso che la vera sorpresa sarà il livello qualitativo medio che mostra il cinema italiano, per cui saranno tanti film che andranno bene. Penso che la punta di diamante dovrebbe essere, appunto, se la sceneggiatura sarà giusta, Benvenuti al Nord. Anche senza occhialini, benissimo. Grazie a Paolo Protti, buon rientro dalle giornate di Sorrento. Andiamo avanti con le visioni domestiche, con i film da vedere in TV, rivedere in DVD e Blu-ray, insomma, per rifarsi un po' la bocca, a volte anche una cultura cinematografica davanti al piccolo schermo, facendolo diventare intelligente e cinematografico. Andiamo come sempre inizialmente a dare un'occhiata a quello che succede nei palinsesti televisivi della prossima settimana, in questo digitale terrestre che ormai è l'unica forma di televisione in chiaro che esiste in Italia, in molte regioni italiane ormai è così, e allora lo facciamo come sempre con Sara Sagrati di Film TV, della redazione del settimanale Film TV, che ha spulciato un po' per noi i palinsesti, soprattutto in occasione di una ricorrenza, questo 8 dicembre, che per tutti gli amanti dei Beatles e di John Lennon ha un significato particolare. Sara. Ciao Franco, buonasera a tutti, ben ritrovati con le segnalazioni della settimana di Film TV. Questa settimana parliamo di un avvenimento triste, in quanto mercoledì 8 dicembre ricorreranno i 30 anni dalla morte di John Lennon. Anche la TV vuole ricordare la figura di John, che ha avuto un grande impatto nella società di oggi, non solo di quella di ieri, tanto che Cielo, il canale del digitale terrestre di Sky, dedicherà proprio nella serata dell'8 una double feature. Si inizia alle 21 con Lennon Naked, Essere John Lennon, che è un film TV che racconta di alcuni anni della vita di John nel momento in cui stava rompendo con Cinzia e conosceva Yoko Ono. Un bravissimo Christopher Eccleston, il film non è, essendo un film TV, non è magari ad altezza di altre cose, ma sicuramente vale la pena un'occhiatina. Subito dopo è Across the Universe, il musical con Gene Sturge e Rachel Wood, con le musiche dei Beatles. Su Rai 4 invece alle 21:10, sempre la sera dell'8, The Killing of John Lennon, che è un po' l'altra faccia, è la storia di Mark David Chapman, il codardo che spinse il grilletto, ed è tutto il suo racconto in voice over di come è arrivato alla maturazione di un'idea così folle. Sul digitale terrestre, ma questa volta a pagamento, Studio Universal alle 21, USA contro John Lennon, che è il documentario che racconta della figura politica e di come fu importante il suo impatto sulla cultura americana. Beh, ce n'è davvero per tutti i gusti, quindi John Lennon Day l'8 dicembre, tra l'altro per saperne di più anche su Film TV, che dedica la copertina a John Lennon, martedì prossimo in edicola ci saranno ulteriori segnalazioni di trasmissioni che anche al di fuori del cinema, insomma, celebreranno questo anniversario della morte di John Lennon. Grazie Sara. E con questo è tutto, grazie Franco, e risentirci la prossima settimana. E allora, Sara Sagrati di Film TV, noi abbiamo la terza e conclusiva traccia del film con cui stiamo giocando oggi. E allora ancora musica, ancora grande musica per questo capolavoro, e adesso, visto che siamo arrivati in fondo, possiamo anche dire dell'animazione di tutti i tempi, musica classica, animazione, un film che affonda le radici negli anni 40, che film è e se riuscite anche in che scena si vede quello che avete sentito, si verificano queste grandi musiche. La Rosa Purpura @radio24.it, come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica, in palio c'è per il più bravo e veloce del sabato e della domenica il Blu-ray di questo film. Noi andiamo come sempre indietro di 7 giorni, andiamo ad ascoltare una delle tracce che avevamo proposto la settimana scorsa. Mi hai seguito? Un pupazzo ti ha inseguito? Me lo hai messo nel letto. Lucas, io non so di che tu stia parlando, non ho messo nessun pupazzo nel tuo letto. E allora si trattava di The Hole, film che è stato presentato lo scorso anno a Venezia con la regia di Joe Dante, che è un grande maestro del cinema di genere, diciamo così, dell'horror, del soft horror o comunque del fantasy. Pensate a film come Gremlins, tanto per dirne uno, un grande cinefilo tra l'altro Joe Dante, e che arriva adesso in Blu-ray, in un'edizione davvero importante e soprattutto in 3D anche per chi lo vedrà a casa. Ci spiega questa diavoleria il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, l'edizione Blu-ray Medusa di The Hole è di notevole qualità. All'interno di questo box in metallo da collezione trovano posto due dischi, due Blu-ray con la versione del film bidimensionale, ma soprattutto 3D, attraverso i classici occhialini colorati, ma anche in 3D, nel 3D cosiddetto attivo, per godersi l'opera tridimensionale come al cinema, sempre che si sia ovviamente già attrezzati in tal senso. C'è questa doppia traccia di DTS ad alta risoluzione in italiano e in inglese, che sono entrambe veramente notevoli, ci sono numerosi extra che permettono di approfondire la lavorazione in compagnia di cast e troupe. E allora, avevano indovinato e vincono questa splendida edizione Giordana Sozzi di Fiorenzuola, provincia di Piacenza, e Fabio Siboldi di Valle Crosia, provincia di Imperia. Sono loro che potranno godersi in 3D questo The Hole di Joe Dante. Andiamo avanti, perché arriva in Blu-ray tutta la saga di Arma Letale. Ascoltiamo una clip. Ok, pezzo da 90. Allora perché ti sei costituito? Io gli facevo la cresta da mesi. A ogni transazione mi trattenevo un po' di grana. Ah, era facilissimo. Tutti quei versamenti in contanti, milioni di dollari in banconote di piccolo taglio che passavano di mano. Tu lo capisci? Chi nota la mancanza di 10.000 dollari qua, 20.000 dollari là? I trafficanti. Già, infatti l'hanno notato. Ecco perché passo da un albergo all'altro. Hanno mangiato la foglia. Trafficanti di droga, armi, prostituzione, dinamitardi, pazzi furiosi di ogni genere entrano ed escono nella vita piuttosto velocemente di questi due sergenti, il sergente Martag e il sergente Rix. Sono quattro divertenti film d'azione che li vedono coinvolti a partire dal 1987, dal capostipite, tutti diretti con amabile ironia dal regista Richard Donner. Per tutti i Blu-ray di Warner, l'offerta audio in italiano è di nuovo la traccia Dolby Digital 5.1 canali dei DVD, c'è questa però notevole originale DTS in alta risoluzione. Ciascun Blu-ray venduto separatamente contiene una serie di extra dell'epoca, tra cui il commento del regista, purtroppo non sottotitolato in italiano, ci sono anche scene tagliate e videoclip musicali. 7 premi Oscar nel 58, miglior film, regia, attore protagonista Alec Guinness e via di seguito, un capolavoro della storia del cinema bellico, il ponte sul fiume Kauai, diretto da David Lean. Ecco la realtà, ecco qui il punto dove dovremmo essere già arrivati, ed ecco qui invece dove siamo ancora. Per colpa di quel vostro colonnello siamo indietro, e molto, e non basta, state tutti sabotando il lavoro. Colonnello. Sì, l'ho visto io, dovrei fucilarvi tutti. E il ponte chi lo fa? Siamo in Birmania durante la Seconda Guerra Mondiale, in un campo di prigionia giapponese. Un colonnello inglese, dopo lunghe torture, si convince a dirigere i propri uomini per aiutare le maestranze locali nella costruzione di un ponte sul fiume Kauai. C'è chi vede nella realizzazione dell'opera una dimostrazione delle superiorità inglese, rivalsa morale, dall'altra uno scellerato collaborazionismo. Nel frattempo un comando alleato è in marcia verso il ponte per distruggerlo. Capolavoro di David Lean, la guerra, fotografata con occhio tragico ma anche ironico, la pubblicazione di Sony Pictures Home Entertainment è notevole, con un risultato video inaspettato, nonostante il film risalga al 1957, buon risultato anche per le tracce audio, soprattutto quella inglese. Tra gli extra segnalo la visione del film, immagine nell'immagine, con approfondimenti testuali sulla lavorazione, ci sono 53 minuti di documentario e il tributo al film da parte del regista John Milius. Ricordo che l'edizione Blu-ray è anche in versione numerata, tiratura limitata di 1000 copie in formato libro. E ricordiamo anche un clamoroso e memorabile fischiettio, motivetto fischiato dei prigionieri di guerra, che è rimasto nelle orecchie di più generazioni. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, a risentirci. E siamo in chiusura, abbiamo finito la nostra ora di cinema. Fra le novità del grande schermo di questo fine settimana e tutte le analisi di questa settimana al cinema, noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 18 e domenica prossima, per chi ci ascolta in replica, alle 15 qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.